Siamo qui con Ilombroso, Agostino e Dario dopo il concerto al The Click di Lussemburgo. Un'impressione sul concerto. Iniziamo da Agostino, che io ho soprannominato la reincarnazione di Kate Moon. Kate Moon, magari. Sono il suo cuginetto, dai, ancora vivo e senza il suo conto corrente. Il concerto comunque è andato molto bene. Soprattutto vivo, vivissimo. È andato molto bene, passiamo a Dario, Dario Ciffo. No, è andato benissimo, tranne qualche piccolo problemino che noi scherziamo. No, vabbè, poi ci divertiamo, ci punzecchiamo sul palco. Però poi è andato molto bene, mi sembra che ci sia piaciuto e ci ha divertito. 1-2! Ma occhi neri non ne vedo, quindi screzi enormi, no? Tra un po' partono le mani. E quindi finiamo la registrazione qui. Va bene, perfetto. Un saluto a tutti da Dario dell'Ombroso. Ciao, Dago dell'Ombroso, Kate Moon. Ragazzi, grazie di essere venuti e dite in coro, siamo il Lombroso, state ascoltando Sentieri.